fatemi salutare in greco, Iaxu Kalimera Seolus, cioè buongiorno a tutti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. It's Djokovic again, di nuovo re a Wimbledon. In realtà lui è il numero uno, perché il re è quello che ha perso. Ieri è stata una finale di Wimbledon quasi d'altri tempi, c'era aria di un evento storico, Nole contro Central Court, Nole contro tutti, contro un tifo inglese a tratti quasi, quasi scomposto. È inutile nasconderci che per Re Roger potrebbe anche essere stata l'ultima volta in finale lì. Ciao Pierluigi Pardo, l'hai vista? L'ho intravista, però sì l'ho vista, cioè non l'ho vista tutta perché sono arrivato tardi, ma l'ho vista. E devo dirti che ti favo Federer. Insomma, io credo come Todd... per una storia romana, non perché... Sì, no, ma credo come Todd il mondo. 34 anni d'agosto... uno degli eroi del tennis mondiale, poi insomma lo lascio agli esperti di tennis dire se è stato il più grande della storia, anche perché i confronti tra epoche diverse sono, è sempre sono complicato, troppo, troppo difficili. Lui o Sampras, lui o Borg, lui o McEnroe, non so, fate voi, decidete. Non so, però, facciamo insomma, decidere a Nicola Roggero da Sky. Ciao Nicola, come va? Come va? ciao Pierluigi, ma più sacco? No, in questo momento sono marittimo, sono sulle rive del Mediterraneo, esattamente in Toscana. Come tutti i figli inglesi amo molto la Toscana, io quindi quando posso vengo qua. Quindi da lì hai visto... un mare chiuso. Certo. È un mare aperto, il Reno è bellissimo, o poi si mangia dell'ottimo pesce. Sì, l'hai vista da lì quindi, Nicola? Questa finale sì. Po' storica, cioè, io ho avuto questa sensazione guardandola, cioè, ma ho avuto l'idea di essere di fronte a uno di quei match che ci ricorderemo per tanto tempo, non solo non tanto per il risultato, però dicevo prima, hai sempre l'impressione che per il re possa essere stata l'ultima parata. Ma sai, io credo che più che la storicità del match sia questo amore per Federer, che è incondizionato da parte di tutti gli appassionati di tennis, perché Federer è uno che gioca in controtendenza rispetto a oggi. Io mi affido alla penna del leggendario Gianni Clerice, che ha coniato la dizione di sollevatori o sollevatrici di racchette, nel senso che in effetti è diventato un esercizio muscolare, salvo appunto il Roger Federer, che richiama i grandi artisti, da McEnroe a Nastase a Lever, che non ho visto giocare, però mi dicono forse qualcosa di straordinario. E probabilmente c'è questo amore, come c'è l'amore, non so, nel ciclismo per l'atleta che sa staccare l'ulteriore in salita, arrivare solo, che ormai è un'eccezione, e quindi quando si trova fatalmente coinvolge tutti nel tifo per lui e non per gli altri. Sarà un peccato perché Djokovic è un ragazzo simpaticissimo, parla, è anche un gran giocatore, parla 18 lingue, bravissimo nelle imitazioni, è disponibilissimo con la stampa, ieri ha fatto un siparietto mangiando l'erba, quindi ha tutte le caratteristiche per essere uno dei favoriti della folla, però di fronte a Federer c'è poco da fare, si tifa per lo svizzero. Sì. Ci sono anche dei calciatori trasversali, Pierluigi, quelli che tutti alla fine ammirano. Sì, a parte poi che comunque nelle rivalità c'è sempre la regola, c'è l'eccezione, quindi insomma, per esempio Lendl credo non fosse mediamente simpaticissimo, non ho sentito il signor Mannheimer o il signor Piepoli, però c'erano quelli che tifavano per Lendl contro McEnroe, probabilmente erano di meno, ma c'erano, e quindi ci sono quelli che tifano per Nadal, io fra i tre, fra Djokovic, Federer e Nadal, Nadal arriva terzo, ma non perché mi abbia fatto niente, perché lo trovo tennisticamente un po' meno eccitante. Sì. Quindi insomma, però c'è sempre, no? C'è sempre governo e opposizione, c'è sempre maggioranza e minoranza, quindi ed è bellissimo così, è giusto così. Insomma, io ho tifato per Henri de Conte, per esempio, eravamo in quattro, eravamo io, il padre di de Conte, la madre di de Conte e la zia di de Conte. Io per Miroslav Mečir, che ah, non, non, Gattone Messi. A me faceva morire, cioè così come faccio fatica, ammiro Nadal, ma faccio fatica a tifare per uno così. E invece Djokovic è uno che mi accende abbastanza la fantasia, devo dire. Resta il Djokovic fatto ha tutto per essere simpatico. Djokovic è veramente un cabarettista, no? Oltre che un grandissimo giocatore. Sì. E ripeto, lascio la parola a Nicola che ne sa più di me dal punto di vista tecnico, però credo che Djokovic sia sulla strada del talento di Federer, cioè sia comunque un giocatore non così in controtendenza con l'ordine costituito e con il tennis muscolare di questi anni come Federer, però si avvicini a quella dimensione lì, cioè abbia un po' comunque dell'estro e della fantasia che a Federer, mi sembra molto più simile a Federer che a Nadal, se non sbaglio. Questo non c'è dubbio, ecco. Nick. Sì, dai, ma mi ha sopravvalutato per Luigi, nel senso che dire che io sono esperto di tennis, sono un appassionato, ecco, non un esperto. Questo non è vero, lo sappiamo già. Dai. Però quello che posso dire è che io ho conosciuto Djokovic un paio d'anni fa, una partita tra i piloti di Formula 1 e delle stelle di varie attività sportive a Monte Carlo, e devo dire che raramente si vede una persona che ha così tanta attenzione immediata su lui essere così disponibile con tutti, con la stampa, con i tifosi, quindi permetto, ragazzo, una simpatia straordinaria, però dall'altra parte c'è evidentemente un genio, uno che anziché una mano ha un prolungamento della racchetta, ecco, quindi Senti, dico, un'ultima cosa poi andiamo sul traffico, invito gli ascoltatori 800 24 00 24, andiamo al traffico, sentiremo il traffico, ecco. E poi andiamo sul calcio, anche perché c'è un altro argomento Nicola è un esperto talmente di tutto, di tutti gli sport, anche di traffico, Io volevo chiedere ancora una cosa a Nicola Roggero prima di ascoltare appunto il traffico. Il comportamento del pubblico inglese ieri è stato qualcosa di un po' latino, devo dire, ma devo dire che ho seguito Wimbledon e in effetti gli inglesi non li riconoscevo, perché hanno avuto questo amore per Murray, che tra l'altro per loro è un po' forzato, perché Murray è fieramente scozzese. Io ricordo una volta che quando l'Inghilterra fu eliminata dai mondiali, ed era il periodo in cui c'era Wimbledon, qualcuno chiese a Murray: ti dispiace per l'Inghilterra che è stata eliminata? No, anzi, un giorno felicissimo per me, e questo provocò qualche problema. Però in effetti sì, hanno avuto un comportamento sempre nell'ambito della correttezza, per l'amor del cielo, però incredibilmente schierato. Invece il pubblico di Wimbledon per tradizione era superiore agli attori, era come il croupier alla roulette, che non si immedesima. E non hanno voluto Lewis Hamilton rimbalzato ai cancelli del Royal cravatta. Box. È andato lì con la camicia a fiori, ma ti pare. Io vesto peggio di Lewis Hamilton. il problema è che Lewis Hamilton, l'abbiamo già detto molte volte, è abbastanza tamarro, cioè è presentato col cappello di paglia e sta camicia a fiori, hanno detto: guardi, per favore, circolare, che qui non che vestiti così. E poi ci mettiamo lì per il vertice con Tsipras, non può entrare anche Hamilton per una camicia che non va, guarda, incredibile. Bravo, incredibile. Allora, traffico, e poi continuiamo a parlare di personaggi storici in chiave calcistica, perché mi sembra un po' l'estate della Maina Bandiera, non riguarda Federer, riguarda qualche altro personaggio. Traffico. Il signor Pierluigi Pardo è pregato di tornare al più presto sulla terraferma. Tutti convocati. Tutti convocati. Bueno, en primer lugar, gracias a comprometido a que tengo que leer esto. No, ma 725 partite nel Real Madrid, era lì dal 1990, 5 volte campione della Liga, 3 Champions League, 2 Coppe del Re, una mondiale per club, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri ha fatto un po' tristezza, anzi molta tristezza, vedere Iker Casillas dire addio abbandonato da solo su un palco senza nessuno davanti ai giornalisti incapaci di parlare. Oggi Florentino Perez ha cercato di mettere una pezza, è stato ricevuto nella sala d'onore del Real, c'era anche Florentino, insomma non è stata una cosa elegantissima. Pierluigi Pardo e Nicola Roggero sempre collegati con me, 80024 0024 per collegarvi con noi. Nicola, Pierluigi, che impressione vi ha fatto? Vi ha fatto il povero Iker? È tristissima, ma soprattutto una caduta di stile del Real spaventosa. Uno che è stato capitano per non so quanti anni, che era al Real da quando aveva 9 anni, che è stato una bandiera del club, lasciato solo da tutto il club, non c'era un suo rappresentante, non c'era un filmato, non c'era nulla. Soprattutto la cosa fa a pugni se si pensa all'addio che hanno ricevuto Gerrard dal Liverpool e Xavi dal Barcellona. Gerrard dal Liverpool, cioè questo addio, questo qui? No, appunto. Le immagini dicono molto di più rispetto a questi suoni che già dicono tanto. Ma Xavi dal Barcellona anche, cercava veramente solo che gli consegnassero le chiavi della città, poi c'era tutto, tremendo. No, ma la cosa di ieri è una cosa veramente da dilettanti, nel senso che poi allora o fai come ha fatto la Juve con Del Piero, appunto, è questo che ti volevo dire. Polemico, Del Piero, Maldini anche, cioè ci sono state gli addi a alcune bandiere anche un po' traumatiche, cioè Piero. Allora, premesso che credo che qualsiasi storia è bello che finisca come è finita Gerrard, come è finita Xavi, o come è finita via Sanetti all'Inter, cioè se c'è dietro fine è bellissimo, e quindi viva Dio se c'è il dietro fine. Se il dietro fine non c'è per motivi vari, perché magari quel giocatore lì voleva rimanere e invece non ti serve e quindi c'è qualche motivo di frizione, però almeno evita quello che è successo ieri. Cioè, secondo me, molto banalmente, quindi se c'è qualcosa da celebrare di bello, di positivo, è bellissimo, e quindi complimenti. Ho fatto la telecronaca per esempio dell'addio di Estanetti e devo dire che è stato fantastico, così come è stato fantastico in campo l'addio di Del Piero, perché chiaramente in quel momento era il popolo bianconero che gli rendeva omaggio e tutta la squadra, però poi sappiamo che qualche pressione c'è stata perché Del Piero voleva ancora giocare, la Juve aveva voglia di fare altre scelte e hanno avuto ragione tutti e due, perché uno è andato a girare per il mondo a fare l'esploratore ad altissimo livello, l'uomo veramente, l'uomo del mondo, e la Juve anche senza di lui ha vinto, quindi questo è l'oggettivo, è stata una win-win. Se quelle condizioni non ci sono, perché i rapporti sono tesi, allora però bisogna almeno evitare la cosa che è successa ieri. Sì, d'altra parte Nicola, Pierluigi ha detto è stata una cosa da dilettanti, definire dilettanti quelli del Real Madrid è tanto, mi viene quasi da pensare fosse stato qualcosa di forse premeditato, forse non sia stato un addio così doloroso da parte del Real. Sicuramente. Allora, che Casillas probabilmente non era più il Casillas di 3-4 anni fa, era palese, aveva già perso il posto con Lopez ai tempi di Mourinho, quindi era chiaro che era diventato un peso. Detto questo, non ci si può dimenticare la storia. Io ricordo per esempio aver fatto l'addio di Giggs, l'ultima partita di Giggs al Manchester United. È chiaro che Giggs a 41 anni non era certo più quello dei tempi belli, ma voglio dire, quando Giggs entrò per l'ultima volta in campo per l'ultima partita, manco poco che venne giù l'Old Trafford. Non è possibile che il Real faccia, ripeto, il Real Madrid, che fra l'altro ha sempre curato le sue bandiere, appunto, in maniera particolare, nessun giocatore del Real è mai andato a un club che potesse dar fastidio al Real. Mi rimette Raul andò allo Schalke 04 per la carriera, quindi è una squadra che ragionevolmente con il Real non aveva possibilità di sfidarlo. veramente nel caso di Casillas l'ha trovato un'ingratitudine spaventosa, cioè, a meno che, non so, Casillas rubasse sugli incassi del Santiago Bernabeu, ma non credo, non, o avesse storie con mogli di altri dirigenti del Real, ma anche qui non credo, vista anche la fidanzata di Casillas. Ecco, appunto, quindi nel caso veramente mi sembra una caduta di stile spaventosa. D'altra parte è un po' l'estate degli ammai la bandiera, dicevo prima, eh. Casillas va al Porto dopo tutti questi anni. Schweinsteiger, è notizia di ieri, che va dal Bayern Monaco, in cui giocava dal 98, adesso lo United sta pigliando tutti. In Inghilterra è una specie di supermercato, poi ne parliamo, c'è Sabatini a Manchester per Dzeko, magari andrà a Londra per vendere destro a West Ham o per prendere Salah, questo lo scopriremo vivendo. Poi c'è Pirlo, che non mi sento di definire una bandiera del Milan o della Juventus, ma è una bandiera del calcio italiano, uno di quei classici giocatori trasversali di cui parlavo prima, che un po' tutti abbiamo amato, non solo quando aveva la maglia azzurra. Xabi dal 91 al Barcellona, lo stesso Cech che va all'Arsenal, era al Chelsea dal 2004. È curioso, no, Pier? Sì, è assolutamente curioso, ed è come tutte le cose della vita, sai, come tutte le categorie della vita, è chiaramente una cosa, è tutto interessante, è meravigliosa la fedeltà, ed è però bella anche la curiosità. Io non so dirti, io penso che appunto nella vita ci sono cose diverse che possono essere tutte estremamente attraenti, quindi è bellissima la storia di un giocatore che è simbolo, bandiera di un club, ma è altrettanto, cioè, da un certo punto di vista a me incuriosisce vedere Schweinsteiger con la maglia dello United, anche a me, per dirti, no? Anche, ma chissà quindi, chissà Nicolino che tra l'altro quei colori ce li ha abbastanza tatuati sul cuore, eh? Schweinsteiger al Manchester United è curioso. Sì, ma certo, assolutamente, è una storia interessante, cioè, come appunto, come dicevo un istante fa, sono categorie dello spirito diverse, sono categorie diverse, ma belle. È bella la fedeltà di un giocatore come gli Estanetti, come Totti, come Maldini, come Del Piero, che gioca da 25 anni in uno stesso club, ma io capisco pure quelli come Ibra che hanno voglia di stimoli, che cambiano, non è solo un fatto di soldi, guarda, io sono sicuro di questo, non è solo un fatto di soldi. È un fatto anche proprio di quello che di essere per esempio banalmente sensibili alle lusinghe di chi ti cerca. Sì. E quindi di essere, no? Ma di essere emozionato ed eccitato dall'idea di hai fatto un sacco di cose in un posto e c'è un altro che ti chiama e c'hai voglia di dimostrare che anche lì può fare la differenza. Quindi sì. Quante volte diciamo siamo curiosi di vedere Messi con un'altra maglia? Non lo vedremo mai. Su Cristiano Ronaldo qualche dubbio me lo tengo, perché non sono così convinto che... Magari vederlo in Italia. In Italia adesso non esagerà. Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain, cioè, dopo che hai vinto tutto, che hai messo i record, ma, cioè, io Cristiano Ronaldo che chiaramente senza rimetterci un euro va al Paris Saint-Germain per provare a vincere una Champions a Parigi, io lo capisco. Sì, e se fossi Cristiano Ronaldo, non lo sono, forse avrei lo stesso tipo di curiosità. È chiaro che poi nessuno di questi va a guadagnare di meno da un'altra parte. Ma questo è evidente. Nicola, cosa ne dici? Schweinsteiger allo United, come ti sembra? Guarda, credo che sia un grosso colpo per il Bayern, perché era un giocatore di 31 anni che mi pareva obiettivamente in parabola discendente. Il Bayern trova anche dei soldi da Schweinsteiger e il Manchester United prende un giocatore con cui non so che futuro possa costruire. Può costruire un presente, ma al momento lo United non mi sembra ancora una squadra in grado di lottare per vincere la Champions League, tanto per dirne una. Quindi credo che sia un bel colpo per, secondo me, per il Bayern più che per lo United, dove Van Gaal a mio parere continua a avere idee piuttosto confuse, salvo l'acquisto di Darmian, che giustamente come lo vedi tu Darmian? Perché adesso negli ultimi anni i nostri che sono andati di là mica bene, Sì, però Darmian è un ragazzo molto posato, molto tranquillo, sufficientemente intelligente da capire che tipo di avventura sta facendo, e è stato a mio parere negli ultimi 2 anni il giocatore campione italiano maggiormente migliorato nell'NBA, da non prima il giocatore più migliorato ogni anno. Ecco, negli ultimi 2 anni l'avrebbe sempre preso Darmian, e a mio parere sarà un giocatore che farà molto bene. perché lo fa tra l'altro al momento giusto, in piena maturità. Venendo un attimo su Cristiano Ronaldo, trovo che ci abbia regalato la storia più bella dell'estate, però, perché la ragazza che perde il cellulare lo fa squillare e risponde Ronaldo e la invita a cena, è fantastica. Io ho provato a perdere piove il cellulare sul bagnato, vado in giro cercando cellulari ma non trovo nessuno. Io ho provato a perderlo sperando di fare il numero che mi rispondesse Charlize Theron, non è capitato. Comunque, per dire la letterarietà del trasferimento di Darmian dal Torino allo United, basti ricordare che l'ultimo trasferimento dal Torino allo United è stato nel 1962, quindi già questo credo che basti per raccontare di che cosa stiamo parlando. Io penso che sia... Io sono contento per lui, anch'io, ma tantissimo. Resto dell'idea che a me piace da morire, tu lo sai, Pier, mi piace da morire vedere i nostri giocatori che vanno all'estero a giocare in grandi squadre. Ho un debole per questo tipo di esperienze, di avventure, perché farò. Sono belle nel senso che sicuramente aggiungono qualcosa, nel senso che rendono l'interesse già elevatissimo che c'è. Beh, grazie a Dio, devo dire questo, posso fare un momento, c'è una voce di Fox come quella di Nicola Ruggero, faccio veramente da questo punto di vista un elogio alle pay TV, che spesso vengono accusate, no, di essere la rovina al calcio moderno. Il calcio moderno è anche questo, il calcio moderno è anche il fatto che noi da 20 anni possiamo, se veramente questo gioco ci piace, vedere tutte le principali partite dei principali campionati, ma non soltanto quando c'erano i mondiali e gli europei. E anche questo, secondo me, è un servizio, ed è un servizio non a caso che piace moltissimo e che funziona. Quindi è il tifo sta diventando sempre più transnazionale, sempre più trasversale, soprattutto tra i giovanissimi. Giuro che io e Pier non ci eravamo messi d'accordo. Io ormai faccio praticamente calcio italiano, soprattutto, però voglio dirti, se tu parli anche con i direttori dei giornali, se parli con appunto le persone della carta stampata, dicono, e in effetti si vede, è evidente sui giornali stessi, che rispetto a qualche anno fa è completamente cambiato il rapporto, certo, e l'importanza. Quindi oggi tu oggi hai generazioni di ragazzi nati da 10 anni, da 5 anni, che tifano Barcellona, Real Madrid, che non è con tutto rispetto il Siena, il Chievo, l'Avellino, il Pescara, sono di Pescara la prima squadra, per Pescara ci mancherebbe, ma hanno una seconda squadra che è una squadra internazionale, ormai è un dato di fatto. Basta vedere i ragazzini in giro che hanno le magliette di Messi, di Ronaldo, di Rooney o di Iniesta. È più difficile trovarle che, non so, a Torino con la maglia di Larrondo non ne trovavo, ecco. Assolutamente, ne una. E la grande rosicata di questi anni qui e della nostra crisi è proprio non aver preso questo treno fino in fondo, perché se questo meccanismo di fusione del calcio a livello globale ci fosse stato 20 anni prima, le squadre italiane sarebbero state leader nel mondo, perché negli anni 90 dominava il mondo, comandavamo noi. Grazie Nick, quindi devo salutare Nicola Ruggero e sentire la borsa, Pier, un attimo. Grazie solo. Anche perché devo sapere come va tra Ronco Billaccio e Verrino del Mugello. Questa è la borsa, quindi stai collegato per il tuo portafoglio. L'indicazione che ho sono quelle della Fallimentini SPA. Grazie Nicola Ruggero. Saluti. Borsa, torniamo subito. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Io ho il clima. Pure io. Io ho il sistema multimediale touchscreen e la telecamera posteriore. Pure io. Io ho anche 5 porte al prezzo di 3. Pure io. E il navigatore in omaggio? Pure io. E sono anche una City Card Toyota. Pure io. Per le City Card Toyota, gli optional non sono optional. Solo a luglio hai Go e Yaris benzina con 5 porte al prezzo di 3 e navigatore in omaggio. Gamma City Card da 100 euro al mese, tag 7,23 e le restituisci quando vuoi. Dettagli su toyota.it. Potevamo accontentarci di un qualsiasi torneo ATP. Invece noi di Sky ti diamo tutti gli ATP Masters 1000. E in più abbiamo voluto il torneo più prestigioso, Wimbledon. In esclusiva e con due canali dedicati, in diretta. tutto per dare sempre il massimo. Abbonati entro il 16 agosto. Sky TV più Sky Sport a 19,90€ al mese per i primi 6 mesi. Chiamaci 02 50 50. Per info vai su sky.it. Sky Sport, per amore dello sport. Nissan Juke è così personalizzabile che ti fa personalizzare anche il suo spot. Quando senti questo suono, di' il tuo nome a voce alta. Nuovo Nissan Juke, ancora più originale, ancora più tuo. Oggi con personalizzazioni in omaggio, per essere unico, proprio come... Nissan Juke, a luglio, da 13.950 euro, con finanziamento Easy Extesa e permuta o rottamazione. Info su nissan.it. Scoprilo su concessionarienissan.it. Convocati. Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Melchione, redazione, Paolo Corleone in regia. Oggi parleremo più tardi anche di mercato, di Sharawi che oggi è stato eletto, ha ricevuto l'investitura a Monaco. Parleremo di Giovinco che ne ha segnati 3 con il New York City, contro New York City con la maglia di Toronto a New York. Terzo gol, se avesse avuto la maglia della Juventus, se l'avete visto, ci avrei fatto parlare per 6 mesi, fuori gioco di 1,5 km. Immobile va al Siviglia, Sabatini a Manchester, come sapete. Ieri il City ha preso Sterling per 68 milioni, sono cifre irreali. Parleremo di moto mondiale, parleremo di ciclismo, di tutte queste cose. 800 24 00 24, intanto io parliamo con voi. Alessandro da Novara, Antonio della provincia di Chieti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti e grazie della convocazione. Lei dica. Volevo riallacciarmi al discorso dell'ingratitudine, tra virgolette, che c'è stata nei confronti di Casillas. Sì. E ritengo, effettivamente, sono d'accordo con voi, che sia stata una mancanza di rispetto per un campione internazionale. E però, se non vi ricordate, se vi ricordate anche voi, c'è stata, secondo me, un'ingratitudine anche 2 anni fa nei confronti di Zanetti. Perché, secondo me, io ero allo stadio, fortunatamente. Oltre al fatto che non è stato fatto giocare dall'inizio, non capisco perché, sinceramente, visto che era l'ultima partita davanti al suo pubblico. Poi è stato anche brutto, secondo me, il fatto che non c'è stata, tra virgolette, l'eccezione di riaprire la curva quella serata lì, perché comunque stiamo parlando di un giocatore... Però era una partita ufficiale. Moratti, Toir, di non poter aprire la curva. No, e la vera... credo, insomma, di non dire niente di clamorosamente riservato nel... Ma poi si è rotto il rapporto tra per questa questione e per altre, tra Mazzarri e l'Inter, tra sì, tifosi ma l'Inter, non Mazzarri. Questa partita è il derby che era, se non sbaglio, 2 partite prima, quando appunto Zanetti non venne fatto giocare, fu una macchia che credo l'abbia pagato Mazzarri. Paradossalmente l'ha pagata più Mazzarri di Zanetti, nel senso che alla fine credo sia stata una di quelle cose che ha irrimediabilmente deteriorato il rapporto fra il pubblico e Mazzarri. Su quella partita lì, nella quale facevo la telecronaca, francamente non mi sento di poter riprovare nulla a Mazzarri, nel senso che anzi... No, io nemmeno. Cioè, no, ma l'ingresso in campo a mezz'ora dalla fine è anche un'occasione di ulteriore passerella, insomma, sinceramente. Quindi io francamente non ho questo ricordo. Poi sul discorso della curva chiusa non aveva nessuna possibilità né Mazzarri né Moratti, detto io. Non dimentichiamo che era una partita ufficiale di campionato, che era anche importante per l'Inter, quindi non era un'amichevole o non era una partita di addio. No, guarda, io ne ho fatti un po' di questi addio, ho fatto Del Piero, che fu una cosa veramente da pelle d'oca, una cosa stracommovente, e ho fatto Zanetti, e devo dire che anche quella fu una cosa bellissima, alla fine con la passerella. Quella di Del Piero fu incredibile, perché praticamente a un certo punto diventò una partita parallela. Sì. Del Piero uscì dal campo intorno al 60esimo e per 5 minuti era diventato ovviamente, insomma, più importante della partita stessa contro l'Atalanta, con tutto il rispetto. Quindi le telecamere andavano lì, era impossibile non emozionarsi di fronte a una cosa del genere. Zanetti, mi ricordo questa immagine finale molto bella, molto intima, molto da famiglia, con tutte le persone che lavoravano nell'Inter, anche quelle, diciamo, meno conosciute, più nascoste, che gli hanno fatto una specie di passerella d'onore. Ma sono cose molto belle. Ripeto, la cosa di ieri è incomprensibile, ma incomprensibile al di là della sostanza, al di là dei buoni sentimenti, nella forma, certo, però, perché? Della comunicazione, perché non fai una cosa del genere, se la devi far così non la fai. devi far così, non la fai. Fai un video celebrativo su Real TV, fai un'intervista, fai qualcosa, fai un messaggio ufficiale, fai un ritiri la mano, cioè ti inventi una cosa. Ma non fai quello che è successo. Io credo, guarda, nessuno mi leva dalla testa che sia stato qualcosa di quasi deliberato. Tanto che anche Valdano, che è uno che adesso che è madridista, che è di quell'ambiente, ha detto se n'è andato con 2 anni e mezzo di ritardo. Quindi non lo so, penserò male, magari, però tu sai com'è, no? A pensare male, eccetera, eccetera. Sì, però, però io ti dico che per quanto. Allora, tu puoi pensare le peggio cose, no? Di Casillas. Puoi pensare, mentre qui partono musiche, puoi pensare alle cose veramente peggiori, no? I rapporti si deteriorano, non c'è niente di male, nessuno di noi sa esattamente cosa è successo, chi avesse ragione. Ma esiste una forma, esiste un'eleganza, esiste un'eleganza, cioè al di là, il famoso i panni sporchi si lavano in famiglia, al di là di tutto, insomma, lo stile. Beh, ma c'è stata questa, come si chiama, questa celebrazione del giorno dopo, no? Oggi, sentiamo Florentino Perez, oggi con Casillas, davanti alla stampa, in un'altra forma. Iker se merece más que nunca nuestro afecto y nuestro apoyo, porque además de ser un jugador único, es y será siempre una buena persona y un magnífico ser humano. Como decíamos en nuestro comunicado, Iker se va, pero su ejemplo permanece porque su comportamiento muestra el camino a los que sueñan con formar parte de este equipo. Y no olvidamos ni olvidaremos que Iker pertenece para siempre al corazón del Real Madrid. Sì, un po' tardiva la celebrazione di Casillas. Antonio, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Volevo farvi 2 domande. La prima riguarda Higuain. Nel senso, esiste veramente qualche squadra, anche tra le più facoltose in Europa, che possa pagare la clausola rescissoria per Higuain? Quando in giro, secondo me, si trova anche persone dello stesso livello a meno prezzo. Adesso dica la seconda, poi le faccio sentire una cosa. La seconda è perché Bertolacci 20 milioni, Condombia 40 e Vidal si presentano solo con 30-35 milioni al massimo. Io ci sto capendo poco in queste valutazioni, anche 16 per El Shaarawy, 15 sono stati offerti al Torino per Maximovic, il Torino ha declinato un invito. Ci sono valutazioni onestamente abbastanza curiose. Ne parliamo però dopo. Intanto, a proposito di Higuain, una risposta gliela può dare De Laurentiis a colloquio con un tifoso. Higuain rimane, solo che so, può piacere, questa ditemi sì. Ma magari lo rimanesse. No. Dì che ci hanno dato 90 milioni, con 90 milioni contro 8. Ma no, Immobile però, presidente, 90 milioni. No, ma allora sì, va bene. Ma che ha soltanto Lorenzini e Conterrani, che tanti ce l'hai? No. Siete benissimo, ve lo traduco. Non mi vende Higuain, ma magari se andasse Higuain ci dà 90 milioni con 8 giocatori e poi il resto. Vabbè, ma non Immobile. No, Immobile può giocare solo con Insigne e Verratti. Tu ce l'hai Verratti? Chiede De Laurentiis al tifoso. Ci ha raggiunto Sebino Nera, Pierluigi. Sebinas, come va? Ciao Sebi. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ciao. Parto da Napoli, poi vado sulla Roma, visto che abbiamo sentito De Laurentiis. Come ti sembra il Napoli che sta nascendo, con Sarri che fa volare i droni sul campo? C'è grande attenzione, e De Laurentiis che dice magari mi dessero 90 milioni per Higuain. Beh, con 90 milioni insomma la squadra si rimette, come no, come no. Ma ti piace il Napoli? Sempre. A me piace, io credo che abbia un grande potenziale questa squadra, come l'ha avuto negli ultimi anni, da Mazzarri passando per Benitez e adesso con Sarri. Quindi ritengo che possa fare un campionato da protagonista. Staremo a vedere con quale sistema di gioco, staremo a vedere anche come chiude naturalmente il mercato. E come dico sempre, riferendomi a questi 90 milioni di Higuain, visto che questo stesso discorso può valere anche per la Roma, se vogliamo, certo. Bisogna stare sempre pronti, insomma, nel caso che ti arrivi una proposta interessante a vendere, siccome non abbiamo ancora il potenziale di altri club europei, insomma, quando ti chiedono un buon giocatore e ti offrono tanti soldi, insomma, è che no, 90, sei quasi 90, costretto 90, a cedere. Ma questo allora, è ovvio, no Pier? 90 per Higuain credo che chiunque glielo porterebbe in macchina. Sì, poi De Laurentiis diciamo che è abbastanza abbastanza tranquillo, no? Nelle sue esternazioni pubbliche varie volte abbiamo insomma usato dei suoi quasi fuori onda, perché poi lo sa che insomma ormai in quest'epoca qui tutto si riproduce, tutto salta fuori su qualche YouTube e viene preso. Io credo che il suo discorso sui 94 milioni fosse una provocazione, ma in fondo è anche vero che la pensi così, nel senso che vendere a 94 milioni di Higuain, secondo me da un punto di vista monetario è un affare. Affare indiscutibile, sì. Perché magari compri, adesso facciamo tanta calcio, magari compri Pogba e Dzeko con 94 milioni o quasi, insomma, no? Quindi, è ovvio che quella è una clausola rescissoria messa lì per stabilire un prezzo folle. Se il giocatore fosse esploso ancora di più di quello che ha fatto, perché poi non ha fatto male, però è chiaro che aver sbagliato così tanti rigori, tanti momenti decisivi in campionato e in nazionale, alla fine e anche in Europa League, tanti gol. Ha condizionato una stagione che secondo me non è stata negativa, no, dal punto di vista numerico assolutamente no, però il paradosso di Higuain è che oggi, pur avendo fatto 30 gol stagionali, è uno che non ha visto aumentato il suo valore, perché ne ha sbagliati alcuni decisivi. Sì, sì. No, a me non è piaciuto tanto come atteggiamento, tu lo sappiamo, sì, bene nel corso di questa stagione. Però l'atteggiamento è quello. Lo so, ma può non piacere. Non da trascinatore, non da capo giocatore. Sì, non da trascinatore, con alcuni gol sbagliati in circostanze importanti e con alcune volte, insomma, questa apparente indolenza, esatto, che a volte confina quasi con l'arrabbiarsi con i compagni, no? Sì, sì, questo, sì. Non è il massimo, sono d'accordo con te. Detto questo, Higuain per me oggi, con la partenza di Tevez, è il miglior attaccante del campionato per distacco, aspettando Dzeko, aspettando gli altri, che vediamo Bacca che cosa farà, aspettando un eventuale Ibrahimovic che spariglierebbe tutto, quindi insomma è un giocatore che vale tanto, secondo me vale 60-65 milioni, questo è il valore di Higuain alle cifre attuali, e quindi è chiaro che a 94 con una provocazione De Laurentiis sta con la battuta. 94 prende Cristiano Ronaldo. Sebino, stai lì un attimo, parliamo di Roma subito dopo il traffico, anche perché la notizia di adesso è Nainggolan che ha trovato l'accordo, 5 anni, a 3 milioni e mezzo più bonus a stagione, poi c'è Sabatini in Inghilterra e ci sono anche delle polemiche, delle critiche già sulla Roma, che hanno come oggetto o come soggetto Pallotta, non tanto Garcia, e una squadra che con la quale i tifosi non hanno ancora fatto pace. Traffico. Con Sarri la maglia si suderà. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo sentito un sacco di casino sulle strade, un po' di casino anche alla Roma, se vi non era, stavamo dicendo. Ma secondo me si è esagerato. Come è successo anche l'anno scorso, qualche insulto a qualche giocatore, ma non darei risalto a questo. C'è una piccolissima frangia della tifoseria che in questo momento è molto arrabbiata col presidente per le espressioni tipicamente americane usate nella passata stagione. Non c'entra assolutamente niente la sfida contro questa squadra di credo che la maggioranza sia un po' disorientata, no? Anche perché è un mercato che fino adesso non ha prodotto rinforzi alla squadra. Ancora no, come abbiamo detto, ma voglio dire, il mercato è lungo, dura ancora moltissimo. Sappiamo che i tifosi vorrebbero tutto e subito e anche il meglio vorrebbero di quello che offre il panorama internazionale calcistico, ma insomma non è fare mercato, a volte non è facile, e come abbiamo detto, visto che non sei uno dei 8-10 club al mondo per potenziale economico, devi stare molto attento e soprattutto devi fare bene tutto quello che riguarda l'uscita. Sì, sì. Se non si vende, se non ci sono molte risorse economiche, devi aspettare prima qualche cessione per poi fare qualche operazione in entrata. Non è andata benissimo questa operazione, vedi Destro, vedi Gervinho, vedi Dumbia, e quindi ci sarà ancora da aspettare qualche giorno. Ma detto questo, alla Roma non serve moltissimo, devo dire, un terzino sinistro sicuramente e un attaccante. Per il terzino sinistro vediamo, ma alla fine io credo per ruolo un giocatore, diciamo, chiamiamolo normale, si possa trovare. Per l'attaccante Dzeko mi sembra che siamo sulla buona strada. si potrebbe prospettare con gli uomini che hai un 4-2-3-1 e se andate a metterli giù dal primo all'ultimo, mi sembra una squadra, ne viene fuori una squadra molto competitiva. Se l'attaccante deve essere Dzeko, ecco. Sempre la seconda forza del campionato, Pier. Ma io in questo momento vedo tante squadre dietro la Juve e mi sembrano tutte sulla stessa linea, cioè perlomeno non mi sembra ci siano. Anche con Dzeko sarebbe così? E c'è un grande attaccante, che veniva cercato da molti, poi c'è anche un'ipotesi Salah che continua a leggere l'alternativa all'Inter. La sensazione è che la Roma farà delle cose. È chiaro che gennaio è stato catastrofico, cioè l'ultimo anno, perché la Roma quest'anno comunque ha partecipato a quel simpatico market pool che fa ridere non poco la Juve. La Juve l'ha portato a dei livelli cosmici perché è arrivato fino alla finale di Champions League. La Roma però comunque ha preso parte a quella ripartizione lì, quindi fa la Champions l'anno prossimo, quindi le risorse ce le dovrebbe avere. Come? Se non ce le ha è perché sono stati fatti degli errori piuttosto evidenti nell'ultimo anno. Questo e chi li ha fatti è la stessa persona che, lo dico per onestà intellettuale, prima ha fatto dei capolavori, perché certo, insomma Sabatini è quello di Marquinhos, è quello di Lamela, è quello che prende Bradley a 8 e mezzo facendo un capolavoro, però è anche poi quello che compra i Turbe o Dumbia. Quindi in questo momento mi sembra che ci sia un po' di impasse. Il rapporto con i tifosi, sono d'accordo con Sebino, credo sia legato a quello, a quella polemica con Pallotta. E comunque estrema, l'ultimo anno e mezzo è stato un anno e mezzo litigherello, nel senso che tutti i 2 anni e mezzo, perché ci fu la contestazione dopo la finale di Coppa Italia, c'è stata la contestazione l'anno scorso contro la Fiorentina. La Roma vive questa situazione abbastanza, per questo io dico che Roma e Napoli, secondo me, una fischia su Ibra dovevano provare a giocarsela, perché sono delle squadre che hanno fatto tantissimo, sono cresciute tanto. Nel calcio di oggi arrivare secondi equivale dal punto di vista economico a trionfare, perché significa fare la Champions l'anno dopo, quindi da questo punto di vista la Roma sta facendo una crescita spaventosa. Quindi tu dici che serviva il catalizzatore alla fine, però alla fine il tifoso baratterebbe volentieri 5 secondi posti con un anno, un anno in cui vince e 4 anni in cui arriva quarto o sesto. E questa cosa manca alla Roma, che è un po' quella che manca anche al Napoli. Se ci si avvicina, il Napoli ha vinto di più a livello di coppe, ma ha ottenuto meno piazzamenti Champions. Il Napoli si è avvicinato, però poi il momento in cui riesci Le è mancato quello che deve fare davvero salto di qualità. Un'ultima cosa, Sebino, ma secondo te il credito di Garcia, nonostante abbia sempre l'appoggio dei tifosi, è finito presso la società? Cioè, o quantomeno agli sgoccioli? No, non lo so, perché lui, devo dire, non mi fa capire molto. Io ho avuto occasione di farlo qualche volta, mi è sembrato insomma di avere davanti una persona di grossa personalità. Secondo me non ha detto tutto, ha detto qualcosa, ha detto qualche mese fa, ma non tutto. L'ultima conferenza stampa, per esempio, ce n'è uscito che erano 20 mesi che chiedeva un nuovo macchinario per il recupero dei giocatori. Insomma, qualcosa sicuramente è successo. A lui sta bene rimanere, perché credo che lui sia convinto che ci sia la possibilità di vincere. E, tra l'altro, questa è la mia idea personale, insomma, la Roma con un giocatore da 20 gol, non voglio esagerare, non dico 25, non dico 30, secondo me potrebbe vincere il campionato tranquillamente, e lui lo sa, si è reso conto perfettamente visto quello che aveva a disposizione. La Roma non si poteva permetterlo di mandarlo via, visto il contratto, scadenza 2018 e tanti milioni di euro. Si va avanti, vediamo se i rapporti reggono. Sembra un po' commissariato, un po' commissariato, diciamo. Sembra un po', ma non lo so, perché un po' commissariato. Adesso vediamo, insomma, adesso si danno molta importanza, si sta parlando molto più del preparatore atletico che di lui. Insomma, sembra una follia questa, ma insomma questo è anche quello che vogliono un po' i giornali, per sfrugugliare qualsiasi squadra di calcio, insomma, creare fin da subito qualche polemica interna. Grazie Sebi, a presto. A voi, buon lavoro. Ciao, ragazzi. Pier, chiudiamo parlando con un paio di ascoltatori. Cesare e Antonio, ti va? Vai. Cesare, Vicenza, buongiorno. Eccomi qua. Buongiorno, dica. Buongiorno. Allora, io volevo intervenire a proposito della cessione di Shaarawy, perché ora nell'era di social network, Facebook, internet, volevo sapere da voi un parere, insomma, perché si dice nelle varie comunità di di una vita mondana, di strapazzi, ora senza entrare nel merito della privacy del giocatore, senza rischiare comunque di andare a dire cose esagerate, però io dal mio punto di vista penso che comunque un allenatore come Mihajlovic, abituato a modi diciamo abbastanza ferri e duri, non abbia avuto dubbi a riguardo se effettivamente l'ipotesi è questa, per cederlo eventualmente anche a una quota che probabilmente è la metà di quello che avrebbero preso due anni fa, quando era stato accostato anche al Manchester City e ad altre squadre, se non sbaglio sui 30 milioni. Sì. Volevo insomma avere da voi se ci sono qualche novità eccetera, perché obiettivamente è passata un po' sordina perché questa cessione qui. E poi volevo chiedervi un'informazione riguardo al Portello, al nuovo stadio, cosa ne pensate del progetto in generale? Il progetto in generale è molto bello, a me piace molto, poi io continuo a pensare che i tempi saranno lunghi. Quanto al resto risponde Pardo, che poi salutiamo. Sì, non, guarda, di voci, la storia del calcio è piena di voci. Sì. E ci vuole pochissimo per fare delle voci che sono delle enormi cazzate, diciamo, con grandissima chiarezza. Quindi a me sembra che è un trasferimento che ci sta, perché la cifra è una cifra più che dignitosa per un giocatore che comunque negli ultimi due anni aveva faticato tantissimo. Due anni e mezzo che ha problemi. Due anni e mezzo, esatto, da quel gol il 24 febbraio del derby del 2013. E quindi secondo me ci sta ed è una cessione congrua, perché il Milan in questo momento ha altri obiettivi. Il Milan sta facendo un mercato basato sul presente più che sul futuro, e quindi cerca di trovare dei giocatori che siano pronti. In questo momento il Sharawi aveva troppi punti interrogativi sul resto, francamente. Sono d'accordo con te, cioè per questi soldi un giocatore che ha comunque avuto problemi fisici importanti negli ultimi due anni e mezzo, comunque non ha reso quanto doveva, mi sembra congruo. Ciao Pier, sentiamo domani. Sì, una cosa al volo, questo è un classico meccanismo da bar, ma lo dico con rispetto, cioè quando un giocatore come Sharawi fa benissimo per una serie di mesi e poi si blocca, quello per la gente dice: ma che c'ha sto ragazzo? No, è normale. Non dico che uno cambiare aria potrebbe anche fargli un gran bene. Ciao Pierino, ci sentiamo domani alle 2. Ciao Luigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. I nasi elettronici, il contaapi, i droni che sorvolano i campi. Ma anche la cottura in lavapiatti. O le fragole sospese. E internet fra i vigneti. E il pomodoro nero. Questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo tutti i sabati alle 15 e domenica alle 7:10 del mattino qui a Radio 24. Convocati. Non è impossibile, ma è troppo difficile. Penso che Valentino sta facendo una stagione molto, molto, molto forte, ma vediamo, proviamo di lavorare così, gara tra gara, e proviamo di divertirci sopra la moto, che è lo più importante. Non fare assolutamente l'errore di sottovalutarlo, ma noi infatti siamo grandi vaccinati, non siamo così stupidi, perché ci sono 65 punti, ma ha ricominciato ad andare fortissimo. Sono molto contento perché è stato un altro grandissimo lavoro del mio team, perché dopo questa mattina nel warm-up ero un po' in difficoltà, soprattutto in frenata. Dovevamo decidere se andare con un setting che avevamo già provato, ma che sapevamo che aveva dei limiti, o qualcosa di diverso che mi aiutava a essere forte in frenata giù nel discesone. E ci abbiamo provato e abbiamo fatto bene, perché la mia M1 era molto molto a posto per la gara. Dunque, questi li avete riconosciuti, credo, Marquez e Valentino Rossi dopo la gara al Sachsenring. Devo confessarvi di essere piuttosto scioccato per una notizia che è uscita ora, durante il giornale radio, che è questa: Ivan Basso ha un tumore al testicolo sinistro e si ritira dal Tour de France. Ha fatto sapere: stasera sono a Milano, domani mi opero subito, ce ne siamo accorti dopo la mia caduta alla quinta tappa. Quel giorno sono caduto, ho battuto il testicolo contro la sella come tante altre volte, però ho cominciato a darmi fastidio. Allora stamattina siamo andati qui a Po, dove c'è un famoso urologo, per fare una visita. L'attacco ha evidenziato la presenza di cellule tumorali nel testicolo sinistro. A questo punto devo tornare subito a casa per operarmi. Oggi avevamo un appuntamento telefonico con Ivan Basso, vediamo se sarà possibile fare degli in bocca al lupo di persona. Intanto saluto e ringrazio Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera al Sachsenring. Ciao Ale. Ciao Carlo, ciao e buongiorno ciao, a tutti. Ciao, buongiorno anche a te. Buongiorno. Notizie che ho appena dato che mi lascia un po' stordito, devo confessarlo, però è così. Parliamo delle due ruote a motore invece. Io credo che ieri Valentino Rossi abbia vinto il Gran Premio parallelo, no? Dietro quelli altri due che erano onestamente irraggiungibili. Sì, sì, infatti diciamo che la chiave in queste gare dove capisci che non hai margine per poter cercare la vittoria è quello di trarre, la chiave è trarre il massimo, no? Questo ormai è una vecchia legge del motociclismo che Rossi applica sempre benissimo, direi meglio di tutti gli altri, e lo ha confermato ieri, insomma, ci ha provato con Pedrosa, quando Pedrosa ha cambiato ritmo all'ultimo, insomma, gli ultimi 4-5 giri lui è rimasto lì, però è una vittoria, hai ragione tu, perché tre punti non sono niente in realtà, perché 10 o 13 nell'economia, nel grande quadro di un campionato, cambia poco, però naturalmente sono pesanti, sono importanti. Secondo me sono tanto più importanti quanto pensiamo che Lorenzo aveva vinto 4 gare consecutive, sì. No? Sì, e lui gli ha sparato di nuovo un più 12, quindi 4 gare consecutive sono servite poi per finire diciamo il girone d'andata, la prima metà, a meno 13, quindi insomma Valentino può andare in vacanza ben felice, ben soddisfatto, e credo anche tutti i suoi tifosi. Io credo che andranno avanti, questi due andranno avanti spalla a spalla, cioè Rossi e Lorenzo, credo che andranno avanti così, e quindi tu hai ragione dicendo tre punti sono in questa corsa spalla a spalla, carena contro carena, sono già qualcosa. Ma tu credi che invece quello che ha vinto ieri, cioè Marquez, sia rientrato o possa rientrare? Senti, guarda, io ti dico una cosa, se analizziamo con la ragione, io ti dico di no, perché 65 punti sono un'eternità. Adesso sì, soltanto volendo fare un conto molto semplice, sono due zeri di Valentino, no? E ne avanzano 15, insomma, ammesso che lui le vinca, quindi voglio dire, già messa così è pesante. Poi però, andando oltre la ragione, io ti posso dire che l'anno scorso, ti posso ricordare, lo ricordiamo tutti, ne ha vinte 10, e quindi perché no? Secondo me le condizioni non ci sono perché le possa rivincere tutte, perché la Honda non è superiore come lo era l'anno scorso, perché Marquez non è quello dell'anno scorso, e comunque l'ha detto lui ancora in Germania, dice la confidenza non è la stessa, perché Valentino è più forte, la Yamaha nel complesso è più forte, quindi insomma io credo che imprese così siano impossibili. È vero che però ne vincerà parecchie, questo è vero. E allora adesso si usa dire l'ago della bilancia, no? L'arbitro del mondiale, insomma, certo, le sue prestazioni saranno importanti. Ma è cambiato qualcosa sulla Honda, Beh, guarda, il famoso ritorno al telaio del 2014 ha ridato un po' di sicurezza a Marquez. Poi io, sai, a queste cose credo e non credo, no? Non che non l'abbiano fatto, ma al fatto che davvero incida. Poi il pilota vive su sottili equilibri, no? Non solo tecnici, ma e quindi sì, forse c'è appunto questo effetto psicologico di tornare dove era. Ad ogni modo il cambiamento c'è stato e lo abbiamo visto, perché le ultime due gare Marquez è stato pazzesco, ricordiamo ad Assen dove però vedi Valentino era competitivo e con Marquez pazzesco, però l'ha battuto, quindi io credo che in prospettiva andremo verso scenari del genere, naturalmente senza lasciare fuori Lorenzo, che è uno che ci ha abituato a momenti di stasi e poi a momenti di grande ritorno, quindi insomma una seconda metà fantastica, io mi aspetto sicuramente. Vedo l'ora che finisca l'estate, non solo per il caldo pazzesco che fa, ma per rivederli in pista. Prima un ascoltatore mi ha dato un sms facendo un parallelo tra la Ferrari e la Ducati, ci sta? Guarda, io intanto io sono onesto, non è che di Ferrari mi intenda tantissimo, qui ci vorrebbe come andamento, il maestro Neoturri, no, però e tanti altri maestri che ne sanno più di me di Ferrari. Sì, come rendimento, diciamo, se l'analogia è l'essere partiti bene e poi essere in calo, direi di sì, anche se sulla Ducati io farei una distinzione, perché sono due le facce della Ducati. Secondo me Iannone non sta andando per niente male, sta facendo quanto ci aspettavamo e forse anche di più, per la lucidità, la vorrei dire la razionalità con cui conduce le gare, e anche lui un po' alla Valentino prende il massimo che c'è sul tavolo. Queste erano piste sulle quali la Ducati non pensava di fare grandi risultati, e quindi secondo me va letto molto positivamente. Altra cosa è naturalmente Dovizioso, perché se tu pensi, Ale, mi sembra quasi che la luce si sia spenta all'improvviso, sì, per sì, Andrea Dovizioso, sì, che stava facendo un grande inizio di stagione. Lui alle prime cinque gare aveva fatto 4 podi e noi parlavamo, forzando un pochino certo, ma comunque non in maniera del tutto infondata, di un possibile candidato per il titolo, insomma per le prime 3 posizioni. Nelle successive 4 gare 4 punti, secondo me l'hanno molto buttato giù i guasti tecnici, perché lui due volte ha avuto guasti tecnici che gli hanno fatto perdere un sacco di punti, e secondo me lui lì è un po' perso la direzione. Mi sembra strano, perché lui veramente è uno dei piloti più lucidi e vorrei dirti coi piedi per terra, no? Sì, del mondiale, certo. Quindi il suo è un caso un po' da studiare. Io lo aspetto e veramente mi spiace molto, perché poi personalmente lo stimo molto, un ragazzo molto bravo, oltre che un bravo pilota, che questa è la cosa fondamentale, ma anche una persona veramente intelligente, seria, sensibile. Spero che si ripigli, perché è importante per la Ducati, per l'equilibrio del mondiale, questo è ovvio, insomma. Però la Ducati, sai, in questi casi si parla di crisi di crescita, no? di momenti interlocutori ma necessari a una crescita. Hai visto che hanno ricambiato le ali laterali, insomma, è una moto giovane. Esatto. Ma Madaligna è bravo, in realtà hanno fatto talmente bene all'inizio e quella era la sorpresa. È chiaro, adesso vanno come devono andare e aspettiamoli con calma, non alziamo le aspettative, ecco. Sì, non so se questo è come la Ferrari, non mi azzardo, no, ma, però, sai, però il parallelo ci sta come rendimento, no? Hai creato una grande, le due rosse hanno creato un grande entusiasmo all'inizio, bravissimi da una parte e dall'altra, e poi c'è questo momento di impasse che magari nessuno si aspettava, però soprattutto per Dovizioso. Alessandro Pasini, grazie. Grazie, ciao, a te, Ale. Un saluto, grazie. A tutti. Ciao, grazie davvero, ciao. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. 800240024, parliamo subito con Antonio da Brescia e Livio da Torino. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. A lei, dica. Ascolti, io volevo rilacciarmi al discorso di Casiglia, Del Piero e Martini e Maldini. Appunto, trovo che ad esempio le società possono aver avuto un attimo di scarsa sensibilità nei confronti della persona. Però io penso che alla fine di una carriera un serio professionista che ha procuratori e tutte le persone che difendono i suoi interessi possa anche dire, vabbè, forse è meglio che smetto e cambio maglia senza fare tanti problemi. Sì, però, questo è corretto, lo penso anch'io, soltanto che dopo una carriera, dopo 25 anni spesi in un posto, dopo 25 anni spesi in un'azienda, va in pensione, magari una forma diversa ci può stare, perché ieri è stato dal punto di vista professionale, cioè umano. Questo a me ha fatto un brutto effetto vedere ieri Casillas, anche se ripeto oggi c'è stata questa tardiva celebrazione, no? con Florentino Perez che abbiamo sentito prima, però mi ha fatto effetto vedere un giocatore che vediamo con la stessa maglia da 25 anni da solo su un palco contro un muro grigio mettersi a piangere con intorno nessuno. Sto parlando da un punto di vista strettamente di rapporti, strettamente umano e strettamente di comunicazione. Quanto al resto trovo del tutto legittimo anche per il Real Madrid dire, guarda, la stagione, sappiamo bene che la stagione qui è finita, poi Casillas insomma negli ultimi anni ha sempre avuto problemi, non solo perché non è più ovviamente il portiere di qualche anno fa, ma anche di rapporti all'interno dello spogliatoio, è un senatore, comunque un giocatore la cui opinione era pesante, quindi del tutto legittimo per il Real Madrid così. Per tutti e due trovare delle strade diverse, questo penso. Tonio, grazie. Livio, Torino, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per la convocazione. Io approfitto della vostra sportività per parlare di moto, ma di motocross, perché in questo momento abbiamo bisogno di dare un grande sostegno morale al nostro Torino Cairoli, che sta facendo veramente vedere delle cose impossibili con un braccio frantumato, sta difendendo un titolo, sta cercando di conquistare il nono, e quindi sta facendo delle cose stratosferiche nonostante le disgrazie. Quindi io voglio veramente lanciare un grosso augurio. Fatto benissimo, io ti ringrazio. Al nostro Torino, grazie anche a voi. Perché è un fenomeno, è un fuori classe, sì, sì. Cioè è uno dei più grandi fuori classe dello sport italiano. Questo l'abbiamo mai avuto. Questo grazie lo sappiamo. Grazie a lei. C'è un El Shaarawy di oggi, poi andiamo in provincia di Cuneo da Anna Maria. El Shaarawy, che vi ricordo è passato al Monaco, oggi le sue prime parole da giocatore del Monaco. Poi c'è anche un'altra carina che riguarda la pallavolo, ve la racconto dopo. Tanto questa è El Shaarawy. No, sono molto, molto felice, molto, molto sereno. Devo ancora un po' realizzare il tutto, perché diciamo che ho dovuto prendere una decisione nel giro di 24 ore, è successo tutto molto, molto in fretta, però penso che questa possa essere la scelta giusta per me, per la mia carriera, quindi sono molto fiducioso. Adesso terminiamo la seconda parte di visite mediche e poi iniziamo. Questo è Shaarawy. Voglio tornare sulla notizia che vi ho dato aprendo questa seconda ora e che, ripeto, mi lascia piuttosto scioccato, perché oggi avevamo, come ogni settimana accade in tempi di Giro e Tour, appuntamento telefonico con Ivan Basso. Abbiamo provato anche ora a chiamarlo. But on the crash I touch my testicle on the saddle and for a few days I feel a small pain and today this morning yesterday we spoke with the doctor of the Tour de France. Our doctor speak to the doctor of the Tour. And we decide to go to make a special analyze to the hospital, and the examination give me bad news. I have a small cancer in the left testicle. So traduco. Queste parole di Basso sono, stasera sono a Milano e domani mi opero subito perché ho un tumore a testicolo sinistro. Ce ne siamo accorti dopo la mia caduta alla quinta tappa. Quel giorno sono caduto e ho battuto contro la sella come tante altre volte, poi ho cominciato ad avere dei problemi. Stamattina siamo andati a Po, sui Pirenei, dove c'è un famoso urologo per una visita. L'attacco ha evidenziato la presenza di cellule tumorali nel testicolo sinistro. A questo punto devo tornare subito a casa per operarmi. Vogliamo fare comunque a distanza, in bocca al lupo a Ivan Basso, certi di sentirlo nei prossimi giorni con buone notizie. Anna Maria, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, questa notizia di Ivan Basso mi ha un po' sconvolta. Io in realtà ringrazio per la convocazione e volevo tornare sul discorso di Casillas, perché io sono una incondizionale, come dicono gli spagnoli, di Inter. E questa cosa mi ha veramente colpito, perché frequento la Spagna molto e lui era per gli spagnoli un santo, cioè per re c'era soltanto lui. Io mi ricordo dopo il 2010 eccetera. Adesso vederlo trattato così fa veramente sotto dal punto di vista emozionale, come dicevate voi. E poi mi dispiace che sia andato al posto, forse come dice sua madre, forse una squadra ancora migliore avrebbe potuto trovarlo, che dite? Sono d'accordo, perché è così che è andata. Insomma, vogliamo ripetere qualche numero di Casillas al Real Madrid dal 90: 725 partite, 5 volte campione della Liga, 3 Champions League, 2 Coppe del Re, un mondiale per club, il mondiale con la Spagna. Dunque un monumento dello sport, ma non solo spagnolo. Dunque, semplicemente a me, vi dico la verità, ha ricordato l'addio di Del Piero, che abbiamo raccontato prima, che abbiamo ricordato prima, appunto, che era stato qualcosa di magnifico da parte dei tifosi della Juventus, mentre la Juventus si è comportata anche peggio, io credo, in quell'occasione rispetto, anzi sono certo, in quell'occasione rispetto a quanto non abbia fatto ora il Real Madrid. Ma sto parlando non del merito esclusivamente della forma, che qualche volta si dice diventa sostanza. Francesco da Prato, buongiorno. Buongiorno, salve, sono un grande tifoso del Napoli. Sì. Volevo chiederle due piccole cose. Il giocatore olandese Ron Vlaar è svincolato? Se sì, può essere poi utile alla causa del Napoli? E la seconda domanda, De Laurentiis ha detto che forse il gap con la Juventus è stato dimezzato. Io sono un po' scettico. Lei cosa dice? La ringrazio, l'ascolto per l'altro. Quanto all'olandese che lei ricorda, le confesso, non so cosa dirle, non so se sia svincolato, non so che apporto possa dare al Napoli. Certamente non è non mi pare un giocatore di quelli che ti cambiano la vita, quindi il Napoli va ritoccato. De Laurentiis è vero, ha detto, ci è ricascato, anzi ve lo faccio anche sentire, perché ha detto ma per lo scudetto ci siamo anche noi, o comunque l'ha fatto capire dopo che l'anno scorso aveva detto in maniera ancora più esplicita, per poi pentirsene. Adesso ci ritorna. E vinceremo, ragazzi. Il mister sta qui per vincere, non per non vincere. Il tricolore della Coppa Italia ce l'abbiamo già messo due volte, adesso vedremo di fare il resto. Abbiamo già il tricolore della Coppa Italia, quello rotondo, già messo due volte, adesso vedremo di fare il resto. Beh, mi sembra che tra le righe sia possibile capire, no, quello che dice De Laurentiis. Vi ho promesso che vi avrei raccontato una cosa carina, cioè, no, carina no, però curiosa, che è successa a pallavolo. Allora, vigilia delle finali di World League che si giocano a Rio de Janeiro, che cominciano mercoledì, Zaziev, Sabbi, Randazzo e Capitan Travizza vanno a fare un giro, sono ancora in giro alle 2 di notte, ben oltre il momento del coprifuoco, e Livio Berruto cosa fa? Cioè lì, Berruto cosa fa? Il CT li prende, li carica sull'aereo e li rispedisce a casa. Cioè non quattro giocatori qualunque, perché Travizza e Zaziev soprattutto sono un po' le stelle di questa squadra. Mi ha detto non mi importa, in nazionale si rispetta un codice, e questo codice è stato violato. Quindi ragazzi, aereo e tutti a casa, ne vengono altri quattro. Così si fa? Magari ne parliamo domani. Tanto vi saluto ringraziando Giorgio De Luca, il nostro autore, Paolo Corleone in regia e Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.